figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Bentrovati da Valentina Furlanetto. Questa puntata è dedicata a un bambino, Elvis, che ha 6 anni. Nel 2009, in questo nostro ricco paese, è morto di povertà. Si chiamava come il re del rock and roll, veniva da Capo Verde, viveva a Napoli con la mamma Manuela, che ora è in ospedale. Era ordinato, educato, amava disegnare, sapeva già scrivere, voleva fare l'ingegnere. Lo hanno trovato in una stamberga di 20 metri quadri, avvelenato dalle esalazioni di un piccolo braciere che la sua mamma aveva acceso perché la stufetta elettrica con la quale si scaldavano era spenta. L'Enel aveva staccato la corrente elettrica perché le bollette non erano state pagate. In realtà si scoprirà poi la bolletta non era mai arrivata a casa di Elvis. Lo hanno trovato il 19 ottobre così, morto avvelenato sul petto di sua madre, che ora è in condizioni critiche all'ospedale. Love me tender, love me true. In questo paese che si interroga ogni giorno sulla questione morale, che discute su escort e trans, un bambino di 6 anni muore di povertà e nessuno o quasi se ne accorge. Letizia Palladino era la maestra di Elvis all'istituto Ozanam di Capodimonte. Era un bel bambino, era molto allegro, educatissimo, molto rispettoso. Era anche molto felice, insomma, di andare a scuola, di imparare, era molto preciso, pignolo, insomma, ci teneva a fare tutto bene. Ci fa ad esempio un... Siamo nella prima elementare, quindi in effetti stiamo studiando le letterine, i numeri. Lui già sapeva leggere, io mettevo delle parole alla lavagna e lui già le leggeva, quindi era molto interessato, era fatto proprio per lo studio, per imparare, insomma. Lei è venuta a sapere di questa disgrazia quando? Lunedì. Il giorno in cui è venuta? Sì, certo. Il 19, che in effetti la zia, insomma, era andata a casa e quindi avevano chiamato i carabinieri, i pompieri, insomma. Dopo poco si è saputo anche qua. Una cosa molto molto triste, cioè una tragedia proprio, perché poi è sempre un bambino, cioè perché poi l'avevo avuto in classe, è una cosa troppo triste. Lei che l'ha visto in classe, anche se per poche settimane in realtà, aveva avuto l'impressione che vivesse una situazione così di indigenza? No, mai. Aveva tutti i pastelli, pennarelli, quaderni, libri, penne, cioè mai che abbia detto... non lo posso comprare mai proprio, quindi non lo potevamo proprio sapere. Puntuale, preciso, proprio molto pulito, assolutamente proprio, ben curato proprio. Ha mai avuto occasione di incontrare la mamma? Sì, perché ogni mattina l'accompagnava a scuola. Che impressione ha avuto del loro rapporto? Normalissima proprio, anzi... erano proprio uniti, proprio d'accordo andavano, mai che abbia pianto, mai che abbia fatto un capriccio, proprio mai. Che reazione hanno avuto i bambini che erano in classe con Elvis? Sempre sono bambini, si rendono conto un po', no, magari non è che subito, però certo sono traumatizzati, cioè nel senso che comunque ogni tanto esce Elvis in mezzo adesso, si ricordano insomma di Elvis, abbiamo fatto anche dei disegni su di lui, delle varie attività, insomma proprio per tenerlo presente ancora. Qualche volta si dice, lei magari ci può aiutare in questo, qualche volta si teme da genitori e da italiani che la presenza di bambini stranieri nelle classi possa rallentare un po' lo studio degli italiani? No, anzi... parlava proprio bene italiano, sapeva già scrivere in italiano, ma lui era proprio un italiano. Fra gli altri, al funerale di Elvis erano presenti anche gli assessori alle politiche sociali della regione Campania e del comune di Napoli. Abbiamo cercato di parlare con loro, ma non li abbiamo trovati, non si sono fatti forse trovare e comunque non c'erano quando Elvis e la mamma avevano bisogno. Non parlate di mancanza di solidarietà, ha detto un residente del palazzo dove è avvenuta questa terribile vicenda. Guardate alle responsabilità di chi adibisce i garage ad abitazioni e poi li affitta. Accomodatevi tutti e due qua. Non posso partire. Che ha detto? È così, è la legge, Vincenzo. Lui è davvero convinto che se gli mettiamo un cattivo voto perché è andato male è perché lui è un rumeno? Allora perché lei mette le note a buffo, professore? Io? Sì, mette le note a buffo. Ancora? Non ho tante ansie. E allora che è? Io non faccio più un cazzo, me ne vado a casa proprio. Tanto c'ho da fare. Che vuoi pensare sulle cose, no? Che dice a priori di pensare sì o no. Io ca mamma, tre persone, certo. Stiamo che tu non sta fila a scuola e la cinellante. Oh. Ti sopporto. انا عمري في حياتي ما كنتش له بيت هو ممكن هو ما يهمش. Oggi un negro di merda si è sentito male al re di Roma. Ma tu sei negro, porco. Vabbè, però quello è negro. No, vabbè, sì, c'ha ragione. L'arabio mi stanno più simpatici. Capito? Quelli che brucierei sono gli altri. Quello che avete sentito è una parte del trailer del film Fratelli d'Italia di Claudio Giovannesi, che la nostra Marta Cagnola ha intervistato al Festival del Cinema di Roma. È un documentario realizzato in una scuola di Ostia con un'altissima concentrazione di immigrati. Il progetto è partito nel 2007 in questa scuola, che è il Paolo Toscanelli, che c'ha il 20% di studenti non italiani, perché nelle periferie, soprattutto per motivi pratici, si vedono realtà multietniche e quindi multiculturali. Io sono andato là, ho incontrato questo 20% di ragazzi che avevano provenienze molteplici e ho scelto tre storie, le più conflittuali che ho incontrato, perché attraverso il conflitto si poteva esprimere meglio il tema del film, che è l'identità. Quindi c'è un rumeno che aveva un rapporto conflittuale con i compagni di classe italiani, con la professoressa di lettere italiane, una ragazza bielorussa adottata, separata dal fratello a causa dell'adozione, che di fronte all'ipotesi di tornare in Bielorussia ha paura e quindi in conflitto con il proprio passato. E poi la terza storia, che è quella più, secondo me, anche più complessa, è di un egiziano nato a Roma che parla italiano e romano peggio di me, nel senso proprio. Si mette le lenti a contatto azzurre per rimorchiare e dice di essere tedesco, che ha due genitori invece egiziani che non vogliono che lui frequenti una ragazza italiana, la sua fidanzata. Dopo questo tuo percorso di Fratelli d'Italia, qual è la tua idea sulla situazione, ad esempio nelle scuole italiane? Insomma, è ovvio che tu hai scelto un caso specifico, certo. Però forse una tua impressione te la sarai fatta. Sicuramente in queste realtà multietniche gli insegnanti sono a volte impreparati, ma perché non possono utilizzare gli stessi strumenti che utilizzano con una classe italiana a cui per esempio insegni Petrarca o Dante. Un rumeno che viene qua, impara la lingua, in più deve avere a che fare con una cultura classica italiana. È ovvio che ci deve essere un incontro di tipo diverso, sia da parte del ragazzo che viene, di un rumeno, di un qualsiasi altro straniero non italiano, ma anche da parte soprattutto degli italiani. L'integrazione riguarda tutte e due le parti, non solo gli stranieri. L'incontro deve essere anche da parte nostra, deve essere un processo. Giulio Beranek è invece l'attore esordiente protagonista di Mar Piccolo di Alessandro Di Robilant. Nel film è Tiziano, studente delle scuole superiori, che vive in un quartiere difficile di Taranto, schiacciato da una famiglia disagiata e dall'ambiente criminale in cui vive. Sinceramente all'inizio ho pensato che avessero preso una telecamera, mi avessero seguito, mi avessero spiato e avessero scritto la storia di questo tiziano basandosi un po' sulla mia, perché è straordinario quante cose, quanti errori ha fatto lui che anche io abbia commesso nella mia vita. Sicuramente sono un po' diverso da lui, che mi sono sempre impegnato di più nello studio, avevo una grande passione che è il calcio, infatti giocavo in Serie B in Grecia. È un po' diverso sono, però Taranto è quella, le situazioni che si possono creare bene o male sono sempre quelle, quindi se la testa è quella uno o li fa gli errori o non li fa. Io ho fatto molti errori, però ho visto che non portano a niente, cioè non paga proprio. È meglio fare una vita tranquilla. Nel film c'è anche un incrocio di provenienze e anche tu, spiegaci un po'. Vabbè, io sono di padre cecoslovacco, però io ho sempre girato perché io sono di una famiglia giostraia, noi abbiamo le giostre che adesso stanno a Taranto e bene o male non ho una città natale, un paese in cui, perché purtroppo da quando sono nato a 7 anni ho sempre girato, poi ho vissuto 7 anni in Grecia e 9 anni a Taranto, sempre comunque sia girando, avendo solo come punto di riferimento Taranto. È una vita, un nomade proprio, uno zingaro. Tiziano dice scappo, ma scappare e muoversi è una soluzione oppure no? Beh, per molti a Taranto sì, l'80% dei ragazzi che si sono diplomati con me sono fuori, chi studia a Roma, chi studia a Bologna, chi studia di là, cioè secondo me è un peccato che ragazzi così validi debbano andare fuori, che magari trovano la ragazza, si sistemano e non tornano a Taranto, cioè si fanno una vita altrove. Invece sono quelli i ragazzi che possono alzare il livello di Taranto, perché se no rimangono sempre i soliti. E rimanendo sempre i soliti, cioè quelli che non studiano e fanno altro, quello che fa Tiziano nel film, cioè Taranto poi come cambia? Per questa puntata è tutto, vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima alle 14:15. Una buona settimana e una buona serata da Valentina Furlanetto.